Per cominciare dal capofamiglia, il signor Murray era in tutto e per tutto un signore di campagna. Rumoroso e gioviale, un cacciatore arrabbiato di volpi, abile come sensale e come veterinario. Un proprietario di terre, pratico e attivo e un cordiale bon vivant. In tutto e per tutto, dico perché, eccetto la domenica che andava in chiesa, a volte magari non lo vedevo per un mese intero, a meno che attraversando l'atrio o passeggiando per i fondi non capitasse sui miei passi un signore grande e robusto dalle guance accese e dal naso rosso. In questi casi, se mi passava abbastanza vicino da parlarmi, un cenno del capo alla buona, accompagnato da un buongiorno, signorina Gray, era tutto il saluto che mi accordava. Ma spesso la sua risata grassa mi raggiungeva da lontano e più spesso ancora lo sentivo imprecare e bestemmiare contro il servitore, lo stalliere, il cocchiere o qualche altro disgraziato domestico. La signora Murray era una signora bella ed elegante, di 40 anni, che non abbisognava né di rossetto né di imbottiture per accrescere le sue attrattive. Il suo maggior piacere era, o sembrava che fosse, fare e ricevere visite e vestire all'ultima moda. Al mio arrivo non la vidi fino alle 11 della mattina, allo stesso modo che mia madre sarebbe entrata in cucina per vedere la nuova serva, anzi, con minore sollecitudine ancora, perché mia madre sarebbe andata a vederla al suo arrivo e non avrebbe aspettato il giorno dopo. E inoltre le avrebbe parlato in tono cortese e amichevole, le avrebbe detto qualche parola di incoraggiamento insieme alla semplice spiegazione dei suoi doveri, ma la signora Murray non fece né l'una né l'altra cosa. Entrò nella sala studio di ritorno dall'aver ordinato il pranzo, mi diede il buongiorno, rimase un paio di minuti accanto al fuoco, disse qualche parola sul tempo e sul mio viaggio faticoso del giorno avanti. Accarezzò il figliolo più piccolo, un ragazzo di 10 anni che si asciugava la bocca e le mani nel suo vestito, per aver mangiato qualche bocconcino ghiotto avuto in cucina. Mi disse che era un ragazzo caro e buono e poi filò via con un sorriso soddisfatto, persuasa certamente di aver fatto abbastanza per il momento e di essere stata molto condiscendente. Anche i suoi figli evidentemente erano della stessa opinione, ed ero solo io che pensavo in modo diverso. In seguito ella venne un paio di volte durante l'assenza dei miei allievi per illuminarmi sui miei doveri. Per le figliole si preoccupava soltanto che fossero messe in grado di figurare il più possibile senza molta pena e fatica. Dovevo quindi agire in conseguenza, studiarmi di divertirle, istruirle, educarle, ingentilirle col minor sforzo possibile da parte loro e senza alcun esercizio di autorità da parte mia. Quanto ai ragazzi, doveva essere la stessa cosa, soltanto invece di finezze di società dovevo ficcar loro in testa la maggiore quantità possibile di grammatica latina e di delectus di Valpus, per prepararli alla scuola, almeno tutto quello che era possibile senza affaticarli. Giovanni era forse un po' vivace, Carlo forse un po' nervoso e difficile, ma in ogni modo, signorina Gray, disse, spero che lei sappia dominarsi e sia dolce e paziente, soprattutto col mio caro Carluccio. È così straordinariamente nervoso e difficile e così poco abituato a un trattamento che non sia il più tenero. Mi scuserà se le dico queste cose, perché la verità è che finora ho trovato tutte le governanti, anche le migliori, manchevoli su questo punto, e se erano prive di quello spirito dolce e calmo che San Matteo, o non so quale altro evangelista, diceva che era meglio di una veste ricamata. Conosce certo il passo a cui alludo perché è figlia di un pastore, ma non ho alcun dubbio che mi soddisferà su questo come nel resto. E ricordi, in ogni caso, se uno dei ragazzi commettesse qualche scorrettezza e se saranno inutili e le persuasioni e i dolci rimproveri, incarichi un altro di venire a chiamarmi perché io possa parlargli più liberamente di quello che a lei convenga. Li renda più felici che può, signorina Gray, ma sono certa che ci riuscirà benissimo. Notai che la signora Murray, mentre era straordinariamente sollecita del benessere e della felicità dei suoi figli e ne parlava costantemente, neppure una volta menzionò la mia, benché quelli fossero a casa loro, circondati dai familiari, mentre io ero in mezzo ad estranei. Ma non conoscevo abbastanza il mondo per non sorprendermi di questo controsenso. La primogenita delle signorine Murray, ossia Rosalia, quando arrivai aveva circa 16 anni ed era una ragazza molto graziosa, e 2 anni più tardi, quando le sue forme giunsero al pieno sviluppo, aumentò la grazia delle sue maniere e del suo portamento. Diventò veramente bella, in grado non comune. Era alta e sottile, ma non magra. La sua figura aveva una delicatezza squisita e nello stesso tempo splendore e salute. I capelli che portava profusi in lunghi boccoli erano castano chiari tendenti al biondo. gli occhi azzurro pallido, ma tanto vivi e splendenti che pochi li avrebbero desiderati di una tinta più scura. Tutte le altre sue fattezze erano minute, non perfettamente regolari né attraenti per altri requisiti, ma nell'insieme si poteva senz'altro affermare che era una gran bella figliola. Vorrei poter dire del suo spirito e del suo carattere quel che ho detto della sua persona e del suo volto. Eppure non sono qui per fare qualche rivelazione impressionante. Era vivace, allegra e poteva essere molto simpatica a quelli che non contrastavano la sua volontà. Verso di me, quando arrivai, si dimostrò sulle prime fredda e altera, poi insolente e tirannica. Ma dopo una maggiore conoscenza lasciò poco per volta da parte le sue arie e col tempo mi si attaccò profondamente, che di più non avrebbe potuto col suo carattere e nella sua posizione, poiché raramente perdeva di vista per più di una mezz'ora che era una dipendente e figlia di un povero curato. Però in fondo credo che mi rispettasse più di quello che lei stessa si rendesse conto, perché ero l'unica persona in casa che professasse costantemente dei buoni principi, che dicesse abitualmente la verità e che in genere cercasse di rinunciare alle inclinazioni di fronte al dovere. E non lo dico per vantarmi, ma per mostrare lo stato infelice della famiglia a cui prestavo in quel momento i miei servigi. Non c'era nessun suo membro nel quale rimpiangessi quella triste mancanza di principi come nella signorina Murray. Non soltanto perché mi aveva presa in simpatia, ma perché vi erano qualità tanto buone e favorevoli in lei, che nonostante le sue deficienze, realmente le volevo bene, quando non mi suscitava indignazione o ira con una manifestazione troppo palese dei suoi difetti. Questi, comunque, cercavo di convincermi, erano piuttosto il risultato della sua educazione che delle sue disposizioni. Non le era mai stata insegnata a dovere la distinzione fra male e bene, le era stato fin dall'infanzia, come ai suoi fratelli e alla sorella, permesso di tiranneggiare bambinai, istitutrici e domestici. Non le era mai stato insegnato a moderare i suoi desideri, a controllare il proprio carattere, a imbrigliare la propria volontà, a sacrificare il proprio piacere al bene altrui. Avendo un carattere buono per natura, non era mai violenta o imbronciata. Ma a causa dell'indulgenza continua e del disprezzo abituale della ragione, si mostrava spesso testarda e capricciosa. Non aveva mai coltivato la mente. Aveva al più un'intelligenza un po' superficiale. Possedeva molta vivacità, una certa rapidità di percezione e disposizione per la musica e per le lingue, ma fino a 15 anni non si era data pena di imparare nulla. Poi il desiderio di brillare aveva stimolato le sue capacità e l'aveva spinta a studiare, ma solamente le materie che servono per comparire. Quando arrivai io fu la stessa cosa. Fu trascurato tutto, eccetto il francese, il tedesco, la musica, il canto, il ballo e un po' di disegno, quel tanto da poter produrre il maggior effetto con la minor fatica. E le cui parti principali erano di solito eseguite da me. Per la musica e il canto, oltre alle mie lezioni saltuarie, aveva l'assistenza del miglior maestro del posto e in queste arti, come nel ballo, certamente otteneva buoni risultati. Alla musica dedicava troppo tempo, come le dicevo spesso, benché sua governante, ma sua madre pensava che se le piaceva non era troppo il tempo che dedicava a un'arte così attraente. Del lavoro di fantasia conoscevo solo quello che avevo appreso dalla mia allieva e dalla mia osservazione, ma non appena ebbi imparato qualcosa, ella mi utilizzò in 100 modi diversi. Tutte le parti noiose del lavoro erano gettate sulle mie spalle, come disporre il telaio, fermare la tela, sortire le lane e le sete, riempire i fondi e contare i punti, correggere gli errori e terminare i lavori di cui era stanca. A 16 anni a Rosalia piaceva ancora giocare, sebbene non più di quel che sia naturale e ammissibile in una ragazza di quell'età, ma a 17 quell'inclinazione, come tutte le altre, cominciò a cedere il posto alla passione di comandare gli altri e presto fu assorbita dall'ambizione dominante di attirare e abbagliare l'altro sesso. Ma basta parlare di lei. Ora passiamo a sua sorella. La signorina Matilde Murray era una semplice ragazzona della quale c'è poco da dire. Aveva 2 anni e mezzo meno di sua sorella e i suoi tratti erano più marcati e la carnagione più scura. Prometteva di diventare una bella donna, ma era troppo ossuta e sgraziata per potersi dire una bella ragazza e per il momento se ne preoccupava poco. Rosalia conosceva tutte le sue attrattive e le credeva perfino superiori a quel che erano. Le valutava più di quello che avrebbe dovuto, fossero state pure 3 volte maggiori. Matilde pensava che andava bene com'era, ma non si arrovellava per questo. Ancor meno si curava di coltivare la mente, di acquistare delle conoscenze per figurare in società. Il modo con cui imparava le lezioni e studiava la musica pareva fatto apposta per mettere alla disperazione qualsiasi governante. Brevi e facili che fossero i suoi compiti, erano buttati giù, seppure erano fatti, ma in genere erano fatti nei momenti meno adatti e nel modo meno utile per lei e meno gradito a me. La mezz'oretta di esercizio era uno strimpellare orribile e intanto mi maltrattava senza risparmio perché la interrompevo per correggerla. Perché non prevenivo i suoi errori prima che li avesse fatti o per qualche altra ragione parimenti illogica. Uno o due volte mi arrischiai a protestare seriamente per questa condotta irragionevole, ma ogni volta ricevetti dalla madre un rimprovero tale da convincermi che, se desideravo tenere il posto, dovevo lasciare che anche la signorina Matilde si comportasse a modo suo. Però, finita la lezione, di solito anche il suo cattivo umore finiva. Quando cavalcava il focoso pony o giocava con i cani o coi fratelli, e la sorella, ma soprattutto col suo caro fratello Giovanni, era felice come una allodola. Sotto l'aspetto fisico Matilde era perfetta, piena di vita, di energia, di attività. Sotto l'aspetto intellettuale era barbaramente ignorante, indocile, trascurata, irragionevole, quindi assai opprimente per una che aveva l'incarico di coltivare il suo intelletto, ingentilire le sue maniere, aiutarla ad acquistare nozioni per far quella figura che, contrariamente a sua sorella, e la disprezzava tanto quanto il resto. La madre si rendeva in parte conto delle sue mancanze e mi teneva molti sproloqui sulla maniera di formare i suoi gusti e promuovere o stimolare la sua vanità addormentata e con scaltre adulazioni dirigere il suo interesse verso gli oggetti considerati, la qualcosa non facevo. E anche in che maniera avrei dovuto spianare e preparare la via del sapere fino a che non avesse potuto scivolarci sopra senza il minimo sforzo da parte sua. Cosa impossibile. Perché non si può insegnare nulla per uno scopo qualsiasi senza una piccola applicazione da parte di chi apprende. Dal lato morale, Matilde era stordita, testarda, violenta e irriducibile alla ragione. Una prova dello stato deplorevole della sua mente era che dietro l'esempio del padre aveva imparato a bestemmiare come un carrettiere. La madre era profondamente impressionata da questa abitudine volgare e si chiedeva come mai l'aveva presa. Ma lei farà presto a correggerla, signorina Gray? Diceva. È solamente un vizio e se la riprenderà con le buone ogni volta che ci casca, sono sicura che presto l'abbandonerà. Non soltanto la riprendevo con le buone, ma cercavo di farle comprendere com'era brutto e urtante all'orecchio delle persone educate, ma tutto inutilmente. Non avevo in risposta che una risata indifferente. Oh, com'è spaventata, signorina Gray! Come sono contenta! Oppure. Ebbene, non so che farci. Il babbo non avrebbe dovuto insegnarmelo, l'ho imparato da lui e può darsi un poco dal cocchiere. Suo fratello Giovanni aveva circa 11 anni quando arrivai nella famiglia. Un bel ragazzo robusto, pieno di salute, franco e di buon carattere nel complesso. E avrebbe potuto essere un giovanetto da bene se fosse stato educato convenientemente, ma per il momento era rustico come un giovane orso impetuoso. Indisciplinato, indocile, ignorante e avverso allo studio, almeno per una governante sotto gli occhi di sua madre. I suoi maestri a scuola ne poterono tirare qualcosa di più perché con mio grande sollievo fu mandato in collegio durante l'anno scolastico, in uno stato, a dire la verità, di ignoranza scandalosa in latino come in altre materie più utili, benché più trascurate. E questo doveva certo essere attribuito alla sua prima educazione, che era stata affidata a un insegnante ignorante che aveva preteso di insegnare cose che non sapeva. Non fui liberata che 12 mesi più tardi di suo fratello, quando anche lui fu mandato in collegio, nello stesso stato di tremenda ignoranza. Il signorino Carlo era il cocco della madre. Era minore di Giovanni di poco più di un anno, ma era molto più piccolo, più pallido e meno vivace e robusto. Un tipetto capriccioso, ostinato, egoista, bravo soltanto a mettere il disaccordo e capace soltanto di inventare falsità. non con lo scopo di coprire i propri sbagli, ma per pura cattiveria e per nuocere agli altri. Il signorino Carlo era per me un gran tormento. Vivere in santa pace con lui era una prova di pazienza. Il doverlo sorvegliare era ancora peggio. Insegnargli e pretendere che imparasse era inconcepibile. A 10 anni non riusciva a leggere correntemente la riga più facile del libro più semplice. E siccome, secondo il principio di sua madre, dovevo suggerirgli ogni parola prima che avesse il tempo di esitare o di esaminare l'ortografia, e non potevo dirgli neppure, perché gli fosse di stimolo allo studio, che gli altri ragazzi erano più avanti di lui, non sorprende che facesse così pochi progressi nei 2 anni che fui incaricata della sua educazione. Bisognava ripetergli le sue lezioncine di grammatica latina fino a che non dichiarava di saperle e poi ancora aiutarlo a recitarle. Se faceva degli errori nelle facili somme aritmetiche, bisognava mostrarglieli immediatamente e poi far la somma per lui, invece di lasciare che si sforzasse a scoprirli da solo. Così, naturalmente, non metteva nessun impegno a evitare gli sbagli, ma spesso, senza alcun calcolo, gettava giù le sue cifre a caso. Tenermi invariabilmente a questa regola sarebbe stato contro la mia coscienza, ma raramente potevo sottrarmivi anche poco, senza suscitare la collera del mio piccolo allievo e di conseguenza di sua madre, alla quale riferiva la mia colpa esagerata maliziosamente o con aggiunte di sua fantasia, e spesso fui per questa ragione sul punto di perdere o abbandonare il posto, ma per amore di quelli che avevo lasciato a casa rintuzzai l'orgoglio e repressi l'indignazione e decisi di lottare finché il mio piccolo tormentatore non fosse mandato a scuola. Suo padre affermava che era chiaro che l'educazione di famiglia non faceva per lui, che sua madre lo viziava esageratamente e che la sua governante non ne cavava niente. Ancora qualche notizia su Horton Lodge e le sue vicende, e ho finito per il momento quest'arida descrizione. La casa era una dimora molto rispettabile, superiore a quella del signor Bloomfield, sia per antichità che ampiezza che per splendore. Il giardino non era disposto con altrettanto gusto, ma invece della prateria rasata, dei giovani alberi protetti dalla palizzata, dei boschetti di pioppi superbi e della piantagione di abeti, c'era un parco vasto, provvisto di cervi e arricchito da vecchi alberi. La bellezza del paesaggio era costituita dai campi fertili, da piante vigorose, da tranquilli sentieri verdi e da siepi amene lungo le quali sbocciavano fiori selvaggi. Ma quel paese era opprimente, piatto, per una nata allevata fra le aspre colline dello Yorkshire. Si era circa 2 miglia dalla chiesa del villaggio, e quindi la carrozza padronale era requisita ogni domenica mattina e anche più spesso. Il signore e la signora Murray di solito pensavano che era sufficiente mostrarsi in chiesa una sola volta nella giornata, ma non di rado i figlioli preferivano tornarci una seconda volta, piuttosto che girare per la campagna per tutto il resto della giornata senza scopo né occupazione. Se qualcuno dei miei allievi preferiva andare a piedi e prendermi con sé, ne ero contenta, perché altrimenti venivo confinata in carrozza nell'angolo più lontano dal finestrino e con la schiena volta ai cavalli, posizione per cui invariabilmente mi sentivo male. E se non ero costretta a lasciare la chiesa a metà funzione, le mie devozioni erano turbate da un senso di languore e di malessere e dalla preoccupazione di star peggio, e un'oppressione alla testa mi teneva compagnia per tutto il resto della giornata, e mi rovinava il riposo benefico e la santa pace della domenica. È molto strano, signorina Gray, che la carrozza le faccia sempre male. A me no, osservava la signorina Matilde. Neppure a me, diceva sua sorella, ma mi farebbe male forse se sedessi al suo posto. È un brutto posto, signorina Gray, mi meraviglio che possa resisterci. Per forza, perché non ho scelta, avrei voluto rispondere, ma per delicatezza verso i loro sentimenti mi limitavo a dire: Oh, beh, il tragitto è corto e purché non stia male in chiesa non importa. Se mi si chiedesse di fare una descrizione delle occupazioni giornaliere, la troverei una cosa molto difficile. Tutti i miei pasti li consumavo con i miei allievi nella sala studio, nelle ore che a loro saltava in mente. Qualche volta suonavo prima che fosse finito di cuocere per avere il pranzo. A volte questo li attendeva sulla tavola per più di un'ora. E poi si arrabbiavano perché le patate erano fredde e il sugo coperto di chiazze di grasso solido. Qualche volta volevano il tè alle 4 e spesso avveniva che sgridavano i domestici se non lo portavano alle 5 precise. E quando gli ordini erano eseguiti per incoraggiarli a essere puntuali, lo lasciavano sulla tavola fino alle 7 o alle 8 anche. Le ore di studio Seguivano lo stesso andamento, non si chiedeva mai il mio giudizio o la mia convenienza. Succedeva qualche volta che Matilde e Giovanni decidessero di fare le pesti prima della colazione e mandassero la cameriera a chiamarmi alle 5:30 senza alcuno scrupolo o scusa. A volte venivo informata di prepararmi per le 6 precise, mi vestivo in fretta e furia, scendevo nella stanza vuota e dopo essere rimasta a lungo tempo in attesa venivo a sapere che avevano cambiato idea ed erano rimasti a letto. O magari, se era una bella mattina estiva, Bruna veniva a dirmi che le signorine e i signorini si erano presi vacanze ed erano usciti. E allora aspettavo la colazione finché mi sentivo svenire, mentre loro si erano rinforzati con qualche cosa prima della partenza. Spesso volevano far lezione all'aria aperta, cosa contro la quale non avevo nulla da dire, soltanto che mi buscavo un raffreddore col sedere sull'erba umida o con le spormi alla rugiada della sera o a qualche corrente insidiosa, mentre loro non prendevano nessun malanno. Era una fortuna che fossero robusti, pure sarebbe stato bene che gli avessero insegnato ad avere qualche considerazione per quelli che lo erano meno. Ma non devo biasimarli per quello che forse era colpa mia, perché non facevo mai obiezione a sedermi dove volevano, preferendo scioccamente affrontare le conseguenze piuttosto che contrariarli per il mio comodo. Il modo sconveniente di fare la lezione s'accordava perfettamente alla capricciosa scelta del momento e del posto. Mentre ascoltavano le mie lezioni, o ripetevano quello che avevano imparato, si stendevano sul divano, si sdraiavano sul tappeto, si stirchiavano, sbadigliavano, chiacchieravano fra loro o si affacciavano alla finestra. Io invece non potevo attizzare il fuoco o raccogliere il fazzoletto senza essere incolpata di trascuratezza da qualcuno dei miei allievi. O sentirmi dire che alla mamma non piacerebbe che fossi così noncurante. La servitù, vedendo in che poca stima era tenuta la governante, sia dai genitori che dai ragazzi, regolava il proprio comportamento su quel modello. Ho preso spesso le sue parti, a rischio di mettermi in cattiva luce contro la tirannia e l'ingiustizia dei suoi padroncini, e sempre ho cercato di non dare ad essa il minimo disturbo. I domestici, al contrario, si infischiavano completamente del mio benessere, trascuravano i miei bisogni e disprezzavano i miei consigli. Non tutti, certo, avrebbero agito in quel modo, ma in genere, essendo i domestici ignoranti e poco abituati a ragionare e a riflettere, sono troppo facilmente corrotti dalla trasandatezza e dal cattivo esempio dei superiori, e questi, credo, non erano dei migliori. Qualche volta mi sentivo avvilita per la vita che conducevo e mi vergognavo di sottomettermi a tanti affronti. Altre volte pensavo che ero una sciocca a prendermela tanto e mi rimproveravo di mancare di quella umiltà cristiana o di quella carità che continua a tollerare e resta buona, non cerca il proprio comodo, non si irrita facilmente, sopporta tutto, si rassegna a tutto. Ma col tempo e la pazienza le cose cominciarono un po' a migliorare. Seppure lentamente, è vero, e quasi impercettibilmente, fui sbarazzata dei maschi, un vantaggio non insignificante, e le bambine, come quando già dissi per una di esse, diventarono un po' meno insolenti, cominciarono a dimostrare qualche segno di stima. La signorina Grey, dicevano, è una persona strana, non fa mai adulazioni e lodi ben poche, ma quando dà un giudizio favorevole si può essere sicuri che la sua approvazione è sincera. Nel complesso è piacente e compiacente, dolce, tranquilla, ma ci sono cose che le fanno perdere la pazienza. I suoi allievi non le danno molta importanza, è vero, ma è meglio essere in buona armonia, perché quando è di buon umore parla ai suoi allievi ed è molto piacevole, a volte perfino divertente a modo suo, che è un modo tutto differente da quello della mamma, ma tanto meglio che si cambia. Ha su ogni cosa la sua opinione personale e vi si attiene con fermezza. Sono spesso opinioni arretrate perché sta sempre a pensare a quel che è bene e quel che è male e ha un rispetto non comune per tutto quello che ha attinenza alla religione e una simpatia inspiegabile per la gente buona. Capitolo ottavo. L'ingresso in società. A 18 anni la signorina Murray lasciò la quieta oscurità della sala studio per entrare nella luce del mondo alla moda. Per quel tanto almeno che si poteva avere fuori Londra, perché suo padre non volle saperne d'abbandonare i suoi piaceri rurali e stabilirsi neppure per poche settimane in città. Doveva fare il suo debutto il 3 gennaio in uno splendido ballo che la madre decise di dare a tutta la nobiltà e all'aristocrazia locale per 20 miglia all'intorno. Naturalmente ella attendeva quel giorno con la più viva impazienza e le più stravaganti speranze di divertirsi. «Signorina Grey!» mi disse una sera, un mese prima di quella data importantissima, mentre stavo percorrendo una lunga lettera molto interessante di mia sorella, a cui avevo dato un'occhiata la mattina, per assicurarmi che non ci fossero cattive notizie, ma che tenevo ancora lì, non avendo trovato un momento libero per leggerla. «Signorina Grey, metta via quella stupida lettera e ascolti me, son sicura che si diverte di più». Sedette su uno sgabello ai miei piedi e io, reprimendo un sospiro di noia, cominciai a piegare la lettera. Devo dire a quella brava gente di casa sua di non infastidirla con delle lettere così lunghe. E soprattutto dica loro di scrivere su della carta da lettere decente e non su quei grandi fogli grossolani. Lei vede i bei biglietti aristocratici che mamma scrive ai suoi amici? La mia buona gente di casa, risposi, sa benissimo che più lunghe sono le lettere, più io sono contenta. Sarei molto spiacente di ricevere da uno di loro un bigliettino aristocratico. E credevo che fosse lei stessa troppo aristocratica, signorina Murray, per trovare volgare che si scriva su dei grandi fogli. Oh, bene, bene, volevo soltanto dire che questo la infastidisce, ma ora ho bisogno di parlarle del ballo e dirle francamente che deve rimandare le sue vacanze fino a che questo non ha avuto luogo. Ma perché io non posso assistere al ballo? No, ma vedrà i saloni decorati prima dell'inizio e sentirà la musica e soprattutto vedrà me nel mio stupendo vestito nuovo. Sarò così splendida che mi troverà adorabile. Deve assolutamente restare. Sarei contentissima di vederla, ma avrò molte altre occasioni di vederla ugualmente splendida nei numerosi balli e ricevimenti che avverranno in seguito e non posso deludere i miei parenti col protrarre di tanto tempo il mio ritorno. Oh, non pensi a loro, dica che noi non vogliamo lasciarla andare. Ma a dir la verità sarebbe una delusione per me. Desidero tanto ardentemente di rivederli come loro, me e forse più. Ma si tratta di poco tempo. Quasi una quindicina di giorni, secondo il mio conto, e poi non posso sopportare il pensiero di un Natale passato lontano da casa. E in più sta per sposarsi mia sorella. Veramente? Quando? Non prima del mese prossimo, ma voglio aiutarla nei preparativi e godere il più possibile della sua compagnia finché ancora rimane con noi. Oh, perché non me ne ha parlato prima? Beh, ho ricevuto la notizia in questa lettera che lei ha chiamato stupida e non mi ha permesso di leggere. Con chi si sposa? Col signor Richardson, il curato di una parrocchia vicina. È ricco? No, solamente agiato. È bello? No, solamente discreto. È giovane? No, di mezza età. Oh, santo cielo, che pietà! Che genere di casa ha? Un piccolo vicariato tranquillo, con un porticato coperto di edera. Un giardino vecchio stile e... Oh, basta, mi fa star male. Ma come può sopportarlo? Beh, io spero che non solo potrà sopportarlo, ma che sarà felicissima. Non mi ha chiesto se il signor Richardson sia un uomo buono, bravo e simpatico. Avrei potuto rispondere di sì a tutte queste domande, almeno così pensa Maria, e spero che non scopra di essersi sbagliata. Oh, ma poveretta! Come può pensare di passare la sua vita là? In compagnia di quel vecchio serio e senza speranza di cambiare. Ma non è vecchio. Ha soltanto 36 anni. E lei ne ha 28, ma è più sensata che se avesse 50 anni. Oh, meglio così. Allora sono bene accoppiati. Ma la gente lo chiama degno curato? Non so, ma se lo chiamano così credo sia perché lo merita. Dio mio, che orrore! E lei porterà un grembiule bianco e preparerà torte e pasticcini? Ma non so del grembiule bianco, ma certo preparerà torte e pasticcini di tanto in tanto e non sarà un grande sacrificio per lei, perché li fa già a casa sua. E andrà in giro con addosso un semplice scialle e un cappello di paglia a larghe tese a portare opuscoletti e brodo di ossa ai parrocchiani poveri di suo marito? Non so nulla di preciso, ma sono certa che farà del suo meglio per portare loro conforto, sia al corpo che allo spirito, seguendo in questo l'esempio di nostra madre. Capitolo 9. Il ballo. Ora, signorina Grey, esclamò la signorina Rosalia non appena entrai nella sala studio dopo essermi tolta i miei vestiti da viaggio al ritorno dalle mie 4 settimane di vacanza. Ora chiuda la porta e si sieda e le racconterò tutto del ballo. No, accidenti, no, gridò la signorina Matilde. Non puoi tener chiusa la bocca? Lasciami parlare della mia nuova giumenta. Uno splendore, signorina Grey, una cavalla puro sangue. Sta zitta tu e lascia parlare prima me. No e no, tu avrai tutto il dannato tempo che vuoi. Deve sentire prima me. Mi farò impiccare se non ascolta prima me. Sono spiacente di sentire, signorina Matilde, che non si è ancora tolta quella orrenda abitudine. Beh, non so che farci, ma le prometto di non dire più neppure una parola se ascolterà me e dirà a Rosalia di tenere ferma la sua lingua maledetta. Rosalia rispose risentita e io temetti che sarei stata ridotta a pezzi fra loro. Ma siccome Matilde aveva la voce più robusta, sua sorella dovette finire per cedere e le concesse di raccontare per prima la sua storia. Così fui costretta a udire il lungo racconto della sua splendida giumenta, della progenie, dell'andatura, della velocità, dell'ardore di quella bestia, eccetera, eccetera, eccetera, e della propria abilità e coraggio nel cavalcarla. Concluse affermando che poteva saltare un cancello di 5 sbarre in un batter di ciglia, che il babbo diceva che poteva andare a caccia la prima volta che avrebbero riuniti i cani e la mamma aveva ordinato per lei una amazzone da caccia color scarlatto vivo. «Oh, Matilde, quante storie racconti!» esclamò sua sorella. «Beh», rispose quella per niente sconcertata, «so che potrei saltare un cancello di 5 sbarre se provassi e che il babbo può dire che posso andare a caccia e che la mamma può ordinare il vestito quando glielo chiederò». «Ah, su, ora finiscila», rispose Rosalia, «e cerca, cara Matilde, di essere un po' più fine». «Signorina Grey, vorrei che le dicesse di non usare quelle parole sconvenienti. Chiama il suo cavallo una giumenta, è incredibile, urtante. E poi per descriverlo adopera certe espressioni spaventose. Deve averle imparate dagli stallieri. Quando attacca mi sento venir male. Le ho imparate dal babbo, asina, e dai suoi cari amici», disse la damigella facendo schioccare vigorosamente il frustino che teneva abitualmente in mano. «So giudicare un cavallo come i migliori di loro». «Ma su, smettile ragazzaccia, se continui a questo modo davvero mi verrà una crisi. Ora, signorina Grey, ascolti me, devo raccontarle del ballo. So che muore dalla voglia di sentirne parlare. Oh, quel ballo! Non ha mai visto, udito, letto o sognato di qualcosa di simile in vita sua. Le decorazioni, il rinfresco, la cena, la musica erano indescrivibili. E poi gli invitati. C'erano 2 nobili, 3 baronetti e 5 signore titolate e altre signore e signori in grandissimo numero. Le signore non avevano per me alcuna importanza, eccetto il fatto che mi mettevano di buon umore nel vedere che in massima parte erano brutte goffe vicino a me. Le più belle fra loro, mi ha detto la mamma, erano niente a mio paragone. Oh, signorina Grey, come sono spiacente che non mi abbia vista. Ero affascinante, non è vero, Matilde? Così così. No, ero davvero affascinante. Almeno così mi hanno detto la mamma, Bruna e Williamson. Bruna mi dichiarò che sicuramente nessun signore poteva gettare gli occhi su di me senza innamorarsi all'istante. Mi permettete quindi un poco di vanità. So che lei mi giudica una ragazza presuntuosa e frivola, ma non attribuisco tutto alle mie attrattive personali. Concedo un po' di merito al parrucchiere e un altro po' al mio vestito delizioso. Lo vedrà domani. Tulle bianco su seta rosa. E fatto che era un amore. E poi un vezzo e un braccialetto di grosse e belle perle. Non metto in dubbio che fosse deliziosa, ma è stato questo a deliziarla tanto? Oh no, non questo soltanto, perché sono stata tanto ammirata e ho fatto tante conquiste in quella sera che lei ne sarà sbalordita. Ma che bene gliene verrà? Che bene? Ma son domande di una donna queste? Giusto, penso che una conquista sia sufficiente, e anche di troppo se l'attrazione non è reciproca. Oh, ma sa che non sono mai andata d'accordo con lei su questo punto. Ora un momento di pazienza e le dirò i miei ammiratori principali, quelli che si sono mostrati più solleciti quella sera e in seguito, perché da loro ho partecipato a 2 ricevimenti. Sfortunatamente i due nobili, Lord G e Lord F, sono sposati, altrimenti mi sarei degnata di farla graziosa con loro. Ma così me ne astenni, benché Lord F, che detesta la moglie, fosse evidentemente molto preso di me. Mi chiese di ballare con lui due volte. È un ballerino straordinario, fra parentesi, e anch'io ballo benissimo. Non puoi immaginare come ballai bene quella sera. Me ne meravigliavo io stessa. Anche il mio cavaliere mi faceva molti complimenti, in realtà anche troppi, e pensavo se non fosse il caso di essere un poco orgogliosa e respingente, ma avevo il gusto di vedere la moglie grossolana e bisbetica sul punto di morire dal dispetto. Oh, signorina Murray, non vorrà dirmi che questo poteva realmente recarle piacere. Bisbetica o... Bene, so che è male, ma non mi importa. Sarò buona un'altra volta. Ma ora non mi faccia una predica. Ora eccomi brava. Non sono ancora neppure alla metà del racconto. Mi lasci pensare. Oh, stavo dicendole quanti ammiratori sicuri avevo. Uno era Sir Thomas Ashby, Sir Hugh Meltham e Sir Broadley Wilson. Sono due vecchioni, buoni solo per babbo e mamma. Sir Thomas è giovane. Ci farei caso dopo alcuni mesi di conoscenza. Poi c'era Harry Meltham, il figlio più giovane di Sir Hugh, un giovanotto abbastanza bello e simpatico da scherzarci insieme, ma essendo il figlio minore non è buono che a questo. C'era anche il giovane signor Green, abbastanza ricco ma non nobile, uno stupidone, un vero zotico. E poi il nostro buon parroco, il signor Hatfield, che dovrebbe considerarsi come un umile ammiratore, ma temo che abbia dimenticato di mettere l'umiltà nella sua scorta di virtù cristiane. Il signor Hatfield era al ballo? Sì, certo. Pensavate che era troppo pio per venirci? Beh, pensavo che forse lo considerasse poco sacerdotale. Oh, niente affatto. Non profanò la sua veste col ballare, ma si dominò a stento, poveretto. Aveva l'aria di morire dalla voglia di chiedermi la mano per una figura. A proposito, ha preso un nuovo coadiutore. Quel poveraccio del vecchio signor Bly ha ottenuto la sua curia tanto desiderata ed è partito. E com'è il nuovo? Un vero scemo. Si chiama Weston. Glielo posso descrivere in tre parole. Uno zuccone insensato, brutto e stupido. Ne usate quattro, non importa. Ma basta parlare di lui ora. Poi ella ritornò al ballo e mi diede altre notizie di quel che era avvenuto e degli altri ricevimenti a cui aveva partecipato in seguito e nuovi particolari su Sir Thomas Ashby e sui signori Meltham, il signor Green e il signor Hatfield e l'impressione incancellabile che aveva prodotto su ciascuno di essi. «Ebbene, quale dei quattro le piace di più?» dissi reprimendo il mio terzo o quarto sbadiglio. «Oh, li detesto tutti!» rispose scuotendo i riccioli biondi con aria di grande disprezzo. «Ciò significa, suppongo, li ama tutti, ma quale di più?» «No, realmente li detesto tutti. Ma Harry Meltham è il più prestante, il più divertente. Il signor Hatfield è il più intelligente, Sir Thomas il più brutto e il signor Green il più stupido. Ma quello che sposerei, credo, se fossi costretta a scegliere fra essi è Sir Thomas Ashby. Ma no, se è così brutto e se non le piace. Oh, non mi importerebbe che fosse brutto, anzi, è meglio per questo, e nonostante l'avversione che sento per lui, dovendomi sposare, non mi dispiacerebbe molto di diventare Lady Ashby di Ashby Park. Ma se potessi rimanere sempre giovane, vorrei restare sola. Mi piacerebbe divertirmi in lungo e in largo e civettare con il mondo intero fino a quando fossi sul punto di essere detta vecchia zitella. E allora, per sfuggire a quella vergogna, dopo aver fatto 10.000 conquiste, romperai tutti i cuori eccetto uno e prenderai un marito ricco, nobile e indulgente che d'altra parte 50 donne si struggano di possedere. Benone, fino a che a queste idee rimanga da sola e non si sposi per nessuna ragione, neppure per sfuggire alla vergogna di restare zitella.